pianticelle amene, perghiamo a noi le nostre gioie caro. Si crescano le tenere cortecce, e in loro il testimone del nostro ardore. In ogni corte un pin, servo d'amore, brilli per noi lo spirito. Io perdo questa loro.